Cari fratelli e sorelle, nella nuova serie delle catechesi cerchiamo di meditare. Grazie. Grazie per lo vostro affetto. Ho detto in questa nuova serie delle catechesi poco fa cominciata, cerchiamo di capire il disegno originario della Chiesa, voluto dal Signore, per capire così meglio anche il nostro collocamento, la nostra vita cristiana nella grande comunione della Chiesa. E finora abbiamo capito la comunione ecclesiale è suscitata e sostenuta dallo Spirito Santo, custodita e promossa dal ministero apostolico. E questa comunione, che noi chiamiamo Chiesa, non si estende solo a tutti i credenti di un certo momento storico, ma essa abbraccia anche tutti i tempi, tutte le generazioni. Quindi abbiamo una duplice universalità, l'universalità sincronica, siamo uniti con i credenti in tutte le parti del mondo, e anche una universalità cosiddetta diacronica, cioè tutti i tempi appartengono a noi, anche i credenti del passato e i credenti del futuro formano con noi una unica grande comunione. Secondo la testimonianza del Nuovo Testamento, questa comunità quindi abbraccia tutti i luoghi, tutti i tempi, e lo Spirito Santo appare come il garante della presenza attiva del mistero nella storia, colui che ne assicura la realizzazione nel corso dei secoli. Grazie allo Spirito Santo, l'esperienza del risorto fatta dalla comunità apostolica alle origini della Chiesa potrà sempre essere vissuta dalle generazioni successive, in quanto trasmessa e attualizzata nella fede, nel culto e nella comunione del popolo di Dio. E così noi adesso in tempo pasquale viviamo l'incontro col risorto, non è solo una cosa del passato, ma nella comunione della fede, della liturgia, della vita della Chiesa, sono realtà presenti che noi troviamo attuali tra noi. Questa trasmissione dei beni della salvezza fa della comunità cristiana l'attualizzazione permanente della comunione originaria. E in questa trasmissione ed attualizzazione dei beni della salvezza consiste la tradizione apostolica della Chiesa. Essa è nata dalla testimonianza degli Apostoli al tempo delle origini, è stata consegnata sotto la guida dello Spirito Santo negli scritti del Nuovo Testamento e nella vita sacramentale, nella vita della fede. Ad essa questa tradizione, che è tutta la realtà sempre attuale del dono di Gesù, si riferisce continuamente la Chiesa come al suo fondamento e alla sua norma attraverso la successione ininterrotta del ministero apostolico. Gesù, quando era ancora nella sua vita storica, limitava la sua missione alla casa di Israele, ma faceva già capire che il suo dono era destinato non solo al popolo di Israele, ma a tutto il mondo e a tutti i tempi. Risorto, poi, affida esplicitamente agli Apostoli il compito di fare discepoli tutte le nazioni, garantendo la sua presenza e il suo aiuto fino alla fine dei tempi, come abbiamo adesso sentito nel brano del Vangelo letto ora. L'universalismo della salvezza richiede peraltro che il memoriale della Pasqua sia celebrato senza interruzione nella storia fino al ritorno glorioso di Cristo. È lo Spirito Santo che attualizza la presenza salvifica del Signore Gesù mediante il ministero degli Apostoli e attraverso l'intera vita del popolo della Nuova Alleanza. Gli Atti degli Apostoli presentano dal vivo questa compenetrazione fra lo Spirito, gli inviati di Cristo e la comunità da essi radunata. Grazie all'azione dello Spirito Santo, gli Apostoli e i loro successori possono realizzare nel tempo la missione ricevuta dal risorto, che ha detto ai suoi: avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra. E questa promessa nell'inizio incredibile si è realizzata ancora nel tempo degli Apostoli. E lo stesso Signore ha detto agli Apostoli, o San Pietro ha detto di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a Lui. È dunque lo Spirito Santo stesso che mediante l'imposizione delle mani e la preghiera degli Apostoli consacra e invia i nuovi missionari del Vangelo. Ed è interessante osservare, mentre in alcuni passi degli Atti degli Apostoli si dice che Paolo stabilisce i presbiteri nelle chiese, altrove si afferma che è lo Spirito a costituire i pastori del Grecio. Quindi l'azione dello Spirito e quella di Paolo risultano così profondamente compenetrate. Lo Spirito è presente. Nell'ora delle decisioni solenni per la vita della Chiesa, questo si sente particolarmente, questa presenza, guida dello Spirito Santo. Così nel Concilio degli Apostoli la forma conclusiva è: abbiamo deciso lo Spirito Santo e noi. La Chiesa cammina e cresce nel timore del Signore, colma del conforto dello Spirito Santo. La tradizione è quindi, per ripetere, la comunione dei fedeli intorno ai legittimi pastori nel corso della storia, una comunione che lo Spirito Santo alimenta, assicurando il collegamento fra l'esperienza della fede apostolica vissuta nell'originaria comunità dei discepoli e l'esperienza attuale di Cristo nella sua Chiesa. In altre parole, la tradizione è la continuità organica della Chiesa, Tempio Santo di Dio Padre, eretto sul fondamento degli Apostoli e tenuto insieme dalla pietra angolare Cristo mediante l'azione vivificante dello Spirito. E in questo senso San Paolo dice nella lettera agli Efesini: così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi, familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In Lui ogni costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo nel Signore. In Lui anche voi insieme con gli altri venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito Santo. Grazie alla tradizione garantita dal ministero degli Apostoli e dei loro successori, l'acqua scaturita tutta la vita l'ha costata al costato di Cristo, e il suo sangue salutare raggiungono le donne e gli uomini di tutti i tempi. E concludendo, riassumendo, possiamo dire: la tradizione non è trasmissione di cose o di parole, una collezione di cose morte, quindi. La tradizione è il fiume vivo che ci collega con le origini, il fiume vivo nel quale sempre le origini sono presenti, il grande fiume che ci porta al porto dell'eternità. E così, essendo in questo fiume vivo, si verifica sempre di nuovo la parola che abbiamo sentito all'inizio, la parola del Signore: io sono con voi tutti i giorni della vita fino alla fine del mondo.